Siamo al telefono con Lele di Botanique. Ciao Lele, intanto grazie mille di essere qua con noi. Ciao, buongiorno, grazie a voi. A brevissimo parte la rassegna estiva di Via Filippo Re del Botanique. Qual è l'atmosfera che si respira nell'organizzazione? Guarda, noi siamo carichi come sempre, nel senso che per noi è un po' l'unica occasione che abbiamo durante l'anno di affacciarci al centro storico, quindi diventa occasione insomma importante per fare delle cose un po' in centro e soprattutto per fare una rassegna che raccoglie, almeno per quanto ci riguarda, tutti i nostri gusti musicali, tutta la musica come la interpretiamo noi a 360 gradi, quindi la solita programmazione eterogenea in un giardino meraviglioso, un rito che ormai si ripete da 15 anni, per cui siamo molto molto contenti. Dicevi appunto musica di tutti i generi che incontra un po' tutti quanti, dal 13 giugno al 19 luglio, quindi oltre un mese di musica, e cosa possiamo trovare? Perché c'è musica nazionale, internazionale, c'è un sacco di roba, vuoi farci una carrellata del programma? Guarda, sì, facciamo una carrellata molto volentieri, la programmazione appunto rispecchia tutto quello che succede durante l'anno su Estragon Club, ovvero musica nazionale, musica internazionale, la solita programmazione sull'alternativo ma che spazia molto anche sul pop e su un sacco di altri generi. Cominciamo il 13 con Nada, come ogni anno il primo appuntamento della stagione va sempre a una figura femminile, quest'anno lo facciamo con lei, il 14 End of the Trees, inglesi, KVB il 18, October Drift il 19 e poi la carrellata di, come li definisco io, sempre verdi italiani, nel senso che avremo 20 la banda Bardot per gli appassionati del folk rock ovviamente, il 21 i Paradigmi dei Centri Sociali 99 POS, il 24 i Pancras, il 25 Romina Falconi, il 27 la Maschera che tra l'altro hanno annunciato giusto due giorni fa che sarà l'ultimo tour e poi si sciolgono, ed è un vero peccato perché è una band che sta crescendo veramente tanto. Altri appuntamenti del pop italiano, Francesco Di Bella il 2 di luglio, i Delta V, un ritorno dopo quasi 20 anni credo, il 4 di luglio, Giancane con le sue sonorità molto più sul punk rock il 5 di luglio, il Muro del Canto il 9, Bambole di Peppa il 12 per gli amanti del punk classico, al femminile. Chiudiamo la rassegna al 19 con questo gruppo interessantissimo che era Eurovision per l'Albania, che sono Squadra Elettronica, che è pop elettronico suonato come si deve con una band e con sonorità interessantissime, sono stati un po' quelli, diciamo così, vincitori morali dell'Eurovision, detta di tutti insomma, quindi una programmazione che spazia in tutti i generi assolutamente. La cosa importante ovviamente è che come da 3 anni a questa parte abbiamo trovato questa formula dell'abbonamento a 10 euro per vedere oltre 20 concerti, quindi sostanzialmente costa 50 centesimi a concerto, praticamente un gratuito, anche questo fa parte di quello che è un po' il nostro DNA, riuscire in un qualche modo a fare una programmazione alla portata di tutti, soprattutto con i prezzi, visto i prezzi assurdi che si vedono ormai i concerti importanti in queste estati italiane, insomma. Sì, esattamente, abbonamento a 10 euro sono esattamente 20 concerti, quindi veramente una monetina per vedervi un sacco di gente. Poi in realtà non abbiamo citato, il 18 luglio ci sono anche i Post Nebbia, il 17 In, quindi insomma c'è veramente tanta roba. Appuntamenti, guarda, non mi sono fatto appunti, tornando a memoria ci sono un sacco di cose veramente interessanti. Poi comunque si trova tutto sul sito di Botanique, quindi andatevelo a cercare che c'è veramente tanta roba, e consigliamo appunto l'abbonamento perché è veramente, come si dice da queste parti, una bazza. Guarda, è una bazza, ma soprattutto facciamo il solito appello, venite numerosi perché per noi è ossigeno, nel senso che comunque la programmazione ha dei costi molto molto importanti perché chiaramente sono tutte band con cachet importanti, però abbiamo trovato questa forma di equilibrio, insomma, che sono talmente frequentate le serate che con gli abbonamenti riusciamo completamente a ripagarci la programmazione. Poi c'è questa cosa dell'abbonamento che è diventata interessante perché uno, avendo già l'abbonamento in tasca, magari viene per il concerto del suo artista preferito, poi magari torna perché ha già l'abbonamento e diventa anche la possibilità per esplorare sonorità che magari uno non conosce, stimola un po' la curiosità, diciamo così. È che non fa mai male. Ecco, a proposito di qualità, dicevamo generi più variegati possibili, tanti nomi italiani conosciuti, possiamo dire, e poi ci sono i nomi internazionali, che non sono nomi enormi, ma sono appunto nomi di qualità. Come sono stati scelti? Come li avete contattati anche? Guarda, sono stati scelti sulla base appunto della qualità e non tanto dei numeri, un po' per ragioni di cachet, perché purtroppo la cosa più difficile in questo esercizio che facciamo è riuscire a costruire un programma che sia sostenibile appunto con solo 10 euro d'abbonamento, quindi però sono tutti gruppi, adesso un po' di nomi già molto affermati, soprattutto sulla scena inglese, e dato che stanno crescendo molto molto molto bene. Segnalo peraltro il 3 luglio il duo brasiliano Ana Vittoria, che sono due ragazze talentuosissime, Ana e Vittoria per l'appunto, che sono i nomi tratti in voga nella scena musicale contemporanea in Brasile, ma che stanno veramente varcando i confini e hanno portato a casa anche un Latin Grammy Award, quindi parliamo di gruppi che comunque magari in Italia non sono ancora super affermati, ma che lo saranno presto. Siamo riusciti, almeno quando ce ne abbiamo la possibilità, appunto nella segna tipo Botanique, a poter spaziare, poterci permettere di portare veramente quelli che saranno un po' next big thing durante i prossimi anni, probabilmente. Ecco, e questo è anche un invito, quindi a andarvi a sentire anche nomi che magari non conoscete ancora, ma che presto direte: ah, io c'ero quando suonarono al Botanique. Esattamente, che è un po' quello che ci manca durante la programmazione invernale, perché chiaramente avendo una sala da quasi 2000 posti, siamo costretti a lavorare sui gruppi già affermati. Ecco, a proposito di spazio proprio fisico, Botanique si tiene nei giardini di Filippo Re, quindi pieno centro storico per chi viene soprattutto da fuori, magari per i concerti. Cosa c'è da sapere per godersi al meglio appunto le serate e come funziona per raggiungere Botanique e anche per i biglietti, dove troviamo tutto quanto? I biglietti sono acquistabili in prevendita e durante l'evento direttamente alla cassa delle sere stesse. Quello che consigliamo è di venire presto, l'apertura tutte le sere per le ore 20, i concerti iniziano mediamente attorno alle 21.30-22 per terminare alle 23.30. Si arriva comodamente in autobus o si arriva anche in auto parcheggiandola quando non si trova a posto tranquillamente in piazza 8 agosto, sono poche centinaia di metri per arrivare appunto ai giardini di Via Filippo Re. Location meravigliosa, forse uno dei pochi polmoni verdi del centro storico, quindi con tutte le caratteristiche per fare un bel festival, insomma. Ovviamente c'è la possibilità di mangiare e di bere all'interno dello spazio, con i chioschetti dello street food che caratterizzano ovviamente da tanti anni lo spazio, e tante attività anche alternative, ad esempio laboratori per i bambini, per intrattenere chi viene con famiglia durante gli spettacoli. Perfetto, allora Lele, io ti ringrazio tantissimo, ricordiamo intanto che tutto quello che non siamo riusciti a dire lo trovate anche su botanique.it o su festivalsbackpack.it e su radiocittafugico.it, dato che ne parleremo ampiamente. Ti chiedo se per salutarci hai una canzone da scegliere tra quelle degli artisti che si esibiranno in questa edizione di Botanique. Guarda, ti direi sicuramente Giancane, perché lo sto ascoltando molto in questo periodo e lo reputo uno degli artisti più interessanti della scena italiana di questo periodo. Tra l'altro è uscito con una canzone estiva piuttosto irriverente recentemente, quindi... Esatto, che è quella che avrei consigliato, quindi perfetto così, guarda. Ok, ci ascoltiamo Giancane, appuntamento al Botanique, ricordiamo dal 13 giugno al 19 luglio via Filippo Re qui a Bologna. Grazie mille Lele, in bocca al lupo per tutto quanto. Grazie a voi, buona giornata.